Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari gastronauti. Un buongiorno particolare lo voglio fare a Marco Trombini. A Marco Trombini in rappresentanza, diciamo, di tutti i non vedenti che ascoltano in maniera, devo dire, molto particolare questa trasmissione con molto affetto. Quindi voglio salutare lui per salutare tutti i non vedenti. Ebbene, oggi parleremo di ceci e fave, l'ho già preannunciato. E perché? Perché nelle feste di, diciamo, dei morti, nella ricorrenza dei morti, questi due legumi hanno dei legami particolari, che andremo a vedere, antropologici, ma anche e soprattutto di cucina. Andremo a scoprire quale tipologie di ceci e di fave ci sono in questo paese, in questo grande paese dal punto di vista agroalimentare. Non solo, ma andremo anche a scoprire come si cucinano in qualche maniera e quali sono i segreti. Quindi numero verde per chi vuole intervenire su questo argomento: 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Mi piacerebbe che qualcuno intervenisse così per raccontarci di specie particolari di ceci e di fave, appunto, che si coltivano in giro per l'Italia. Bene. Ho detto legame con i morti, e allora andiamo a scoprire perché c'è questo legame con le festività dei morti. Lo andiamo così a esplorare con il professor Piero Ricci, che è docente all'Università di Siena e soprattutto coordinatore del Master Le Rotte del Gusto, appunto, all'Università di Siena. Buongiorno Piero. Buongiorno a te Davide e a tutti gli ascoltatori. Allora, tu che sei così colto su questo, che hai così una conoscenza profonda di questi legami, con appunto di legami del cibo con forme particolari tipo la morte. E allora, tanto, perché? Ti ringrazio del colto che è legato al culto, come mai in questo caso. Direi che fin dalle origini cucinare è contiguo alla morte. L'umanità comincia a cucinare quando comincia a dar colore alle cose e a nascondere i morti. C'è quindi una contiguità storica, direi, gli inizi delle culture umane. Ma c'è una contiguità poi legata in particolare alle fave e ai ceci, e ai culti funebri. Dunque direi che questa contiguità tra fave e morte è presente in tutto il Mediterraneo, con forme poi di cottura diverse e in qualche modo anche con i ceci. Ma cominciamo con le fave. Le fave hanno poi una contiguità reale con la morte, perché a qualcuno succede di mangiare fave e morire. Speriamo non succeda spesso. È il caso dell'anemia mediterranea col fenomeno del favismo. Non a caso ci sono proscrizioni assolute nei confronti delle fave, tipo per esempio i pitagorici. E Pitagora poi muore attraversando un campo di fave. Tra l'altro era vegetariano Pitagora. Sì, appunto. E però la fava era proscritta tra i cibi vegetariani. No, direi che ci sono poi delle proscrizioni parziali, per esempio nell'Italia del nord non sono forti perché se ne consumano poche, forse anche nell'Italia centrale, ma per esempio nell'Italia del sud le fave fresche sono consumate tranquillamente, però gli si tolgono i germogli e poi soprattutto viene consumata la fava secca e fatta poi rinvenire o macinata in farine del famoso macco siciliano. Certo. Bene. Dunque, all'origine c'era poi anche questo piatto di fave da offrire ai morti e a chi passava durante i banchetti funebri. Il perché? Ma il perché direi che fondamentalmente i simboli in cucina non hanno un perché. Qualcuno dice perché c'è lo stelo cavo del finocchio, come del finocchio e del sambuco, anche della fava, e quindi legato alla possibilità di mettere in comunicazione il mondo dei vivi con il mondo dei morti. Bene, rimani con noi Piero, perché ora poi proseguiremo su questo discorso, perché tu hai detto del sud, ma poi andremo a scoprire che addirittura c'è una festa molto importante addirittura al nord, in Valpolicella, e magari qualcuno ci racconterà perché proprio in Valpolicella esiste questa festa legata alle fave. Ma volevo chiederti un'ultima cosa: ma non è che le fave sia anche un fatto metaforico, diciamo di quasi, cioè questa rotondità che probabilmente era anche molto bella così da mettere nelle tombe o d'altro, quindi un fatto anche estetico? Beh, sai, tutte queste ipotesi sono percorribili. Qualcuno ci vede addirittura nel fiore della fava una lettera dell'alfabeto greco che è il teta e che è l'inizio della parola thanatos e quindi morte. Però, insomma, mi sembra esagerato. Un po' tutte queste possibilità ci sono. L'importante è che ci sia un simbolo. Direi che poi, non a caso, in molte culture italiane, tra le cucine regionali italiane, si usano i dolci a forma di fava. Certo, sì, appunto, diventano dolci specialmente in Umbria, e anche questo lo andremo a scoprire. Grazie Piero, sentiamo Maria da Ragusa. Buongiorno, io purtroppo soffro di colon irritabile e anche di diverticolosi, però sia le fave sia i ceci mi piacerebbe tanto mangiarli. Ho detto, ma guarda che finalmente la trasmissione di oggi mi darà una ricetta per poter ogni tanto magari assaggiare un po' di fave e un po' di ceci. Non soffro di favismo come Pitagora. Bene signora, cercheremo di darle qualche ricetta durante il corso della trasmissione molto volentieri, avremo un paio di chef, quindi chiederemo a loro. La saluto e un saluto alla sua bella città che è Ragusa. Bene, leggo alcuni sms che sono già arrivati. Peccato che la farinata non sia proposta ovunque come spuntino, avrebbe secondo me un grande successo. Sono d'accordo anch'io, caro Mario. Poi parleremo anche di farinata, perché ci sono alcuni luoghi deputati, a cominciare da Genova sicuramente, ma anche altre città. Laddove c'è il porto, anche come a Livorno, sicuramente ci sono delle grandi farinate, magari chiamate l'una diversa dall'altra. Bene, io ringrazio Piero Ricci. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, a parlare di ceci e fave. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, ora andiamo in Sicilia. Andiamo a Leonforte. Leonforte è un borgo siciliano noto per la pesca tardiva, ma anche per le fave. Ebbene, noi abbiamo con noi un giovane coltivatore, Angelo Manna. Buongiorno Angelo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Che appunto coltiva sia pesca tardiva ma soprattutto fave. Ecco, fave. Qual era questa fava di Leonforte? Cosa ha di particolare, Angelo? Sì, allora, la fava di Leonforte è una varietà di fava tipica della nostra zona, della provincia di Enna, e le particolarità maggiori stanno nel fatto, come dice lo stesso nome, la fava larga, quindi ha dei semi giganti, quindi molto grandi rispetto alle altre varietà di fava, e il gusto è, diciamo, diverso rispetto alle altre fave, e inoltre cuoce anche molto facilmente, quindi proprio perché ha la buccia, diciamo, meno spessa rispetto alle altre varietà, quindi riesce a rinvenire e a cuocere molto, molto velocemente. Sentiamo, rimani con noi Angelo, sentiamo le caratteristiche, mi sembra che siano molto particolari, diverse da altre tipologie di fave, poi magari lo andremo a scoprire. Antonio da Napoli, buongiorno Antonio. Buongiorno, senta, questa trasmissione che ho preso, devo dire la verità, per caso, mi ha suscitato una domanda che io mi ponevo fin dall'adolescenza, che è molto lontana, cioè... mi chiedevo sempre, mi sembrava ridicolo allora al liceo, che Pitagora dicesse di evitare di mangiare fave, perché secondo Orfeo e altri, cioè, mangiare le fave significava mangiare la testa addirittura dei genitori morti. È possibile che esistesse veramente questa interpretazione che a me, ripeto, da adolescente mi è rimasta, diciamo così, come un punto interrogativo. Ma guardi, secondo quello che ci ha, così, ha detto il professor Ricci, potrebbe essere, perché appunto Pitagora era vegetariano, ma è in corso così in grossi problemi appunto con le fave. Avesse questo problema già dall'infanzia, forse, che gli ricordasse la morte, e purtroppo poi ne ha subito le conseguenze. Ora, andare a verificare questi fatti storici al 100% è sempre molto molto difficile, però può essere benissimo un'ottima interpretazione. Grazie Antonio, e magari continui a seguirci visto che ha scoperto questa trasmissione. Bene, eravamo in Sicilia, ora andiamo in Puglia, andiamo da Antonella Ricci, che è la chef principessa della cucina pugliese. Buongiorno Antonella. Buongiorno ai radioascoltatori, scusate la mia voce, sono un po' raffreddata. Senti Antonella, conoscevi questa fava di Leonforte? No, veramente no, perché comunque noi usiamo le fave comunque che si coltivano nel circondario, per cui non mi sono molto interessata alle altre, però sicuramente farò una ricerca. Ecco, diciamo che il perché ti ho chiamato, perché uno dei piatti principali della cucina pugliese appunto è purè di fave con la cicoria, quindi sicuramente questo significa che c'è una grande diffusione di fave, un grande interesse di questa regione, della cucina regionale, per questo prodotto. Le fave veramente un tempo erano il piatto principe della tavola pugliese, infatti mio padre mi diceva sempre che le fave non potevano mai mancare. Intorno alle fave poi si mangiava tante altre piccoli contorni, però la fava, diciamo, è come la polenta del nord. Ecco, ma Antonella, oltre a questo piatto così che è molto diffuso in Puglia, quali altri, ci sono altri piatti che fanno parte appunto della cucina pugliese a base di fave o di ceci? Sì, come no, per esempio a Brindisi si usa tantissimo fare il purè di fave con le cozze e si chiama in dialetto brindisino fai culli cozzi, e quindi anche questo è un piatto molto tipico della nostra zona, e le fave vengono cotte normalmente in acqua insieme a una patata, su 300 grammi di fave 150 grammi di patate, e poi si scottano le cozze a parte, quindi si saltano in padella e si uniscono tutti insieme con dei crostini di pane. Anche questo è un piatto veramente molto molto interessante, perché c'è la cozza e la fave insieme provocano, diciamo, un sapore dolciastro, ma nello stesso tempo leggermente amarognolo. Bene, rimani con noi, questo diciamo che potrebbe essere una ricetta per la signora che ha chiamato da Ragusa, ma ora vedo una telefonata anche da Agrigento. Sono molto felice di vedere queste telefonate che arrivano dal sud, perché diciamo la grande cucina, i grandi prodotti sono in questo momento soprattutto al sud. Sentiamo Alessandro da Agrigento, buongiorno Alessandro. Salve. Salve, complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. La mia in realtà era più che altro un aneddoto legato a Pitagora direttamente, sul fatto proprio della famosa avvenuta. Lo racconti, perché sta diventando molto interessante questa cosa, esatto, di Pitagora. Plotino racconta di Pitagora che consigliare ai suoi adepti di non fare politica, lui dicesse di astenersi dalle fave, in quanto il voto si esprimeva ponendo una fava all'interno di un cesto e poi da là si deducevano di conseguenza i voti. Ed è, in realtà, mi sembrava divertente la cosa, considerando poi la fine che fa Pitagora, certo. In realtà dicesse anche questo voto era astenersi dalle fave, che poi è costata anche la vita, forse era anche qua un po' legato direttamente con la politica. Alessandro, ma lei è un filosofo? Sì. No, io sono un architetto. Ah, bene, quindi con la passione della filosofia, insomma. Sì, anche, diciamo, questo sì. E poi la cosa fondamentale, volevo dire intanto una cosa, che le fave di Leonforte sono veramente una cosa straordinaria. Consiglio a chi non le abbia mai provate di provarle, sono veramente buonissime. Bene, grazie Alessandro da Agrigento. Ora voglio leggere un sms e chiedere poi informazioni ad Antonella Ricci. Ci ricordiamo un ottimo piatto mangiato a base di fave e bieta, forse si chiamava pan di zucchero. Qualcuno può dirci come si prepara? Massi e Gioia. Bene, Antonella, tu ne sai qualcosa di fave? Io penso, sì, io penso che sia una preparazione di fave, e in poche parole la fava riscaldata si mette in un testo, quindi in un tegame di coccio, sotto si mettono delle bietole selvatiche oppure anche cicoriella, sopra si mette la fava, poi si cosparge di mollica di pane e si mette nel forno con dell'olio extravergine d'oliva. Secondo me si chiama pan di zucchero perché mettendolo nel forno poi la fava diventa molto alta, sembra tipo un soufflé, quando esce dal forno è bellissima. Io penso che possa essere questa la ricetta. Bene, grazie Antonella, perché abbiamo fatto felici forse questi due persone che avevano chiesto informazioni su questa ricetta. Ma io voglio tornare dal nostro amico Angelo Manna e voglio così chiedere questo: quanto costa a Leonforte, magari che esce dalla tua azienda, un chilo di fave? Sì, un chilo di fave costa dai 5 ai 6 euro circa, e poi dipende anche la confezione, dipende insomma un po' di cose, comunque intorno a quel prezzo. Io però volevo aggiungere anche un'altra cosa sul discorso di Pitagora, perché sì, avevo letto da qualche parte pure che secondo Pitagora le fave, quindi i baccelli di fave, erano considerati un rifugio delle anime dei morti, e quindi proprio perché siamo a ridosso della festività della commemorazione dei defunti, diciamo, era anche una cosa diciamo interessante, secondo me, da dire. Ecco, no, volevo aggiungerti questo: dunque escono dal tuo, diciamo, dalla tua azienda a 5-6 euro. Tu sai quanto vengono vendute poi nei negozi? Ma nei negozi generalmente si fa un ricarico almeno del 40%, quindi andiamo intorno agli 8 euro, insomma 8-9 euro. Ecco Angelo, c'è un piatto tipico a Leonforte o diciamo nel tuo territorio a base di fave, che non sia quello pugliese o altre tipologie di piatto? Sì, allora piatti tipici ce ne sono parecchi, proprio perché la cultura popolare, diciamo contadina, si è sbizzarrita nel corso degli anni, dei decenni a fare una serie di ricette, proprio perché fino agli anni 50 le fave erano mangiate la carne dei poveri, quindi avevano un larghissimo consumo tra gli strati soprattutto più poveri della società. E uno di questi è ad esempio le cosiddette fave ingrigi, cioè sarebbe a dire fave bollite, semplicemente bollite con un pizzico, con un po' di sale, e questo con le fave di Leonforte è anche una cosa abbastanza indicativa del gusto, diciamo, che questa fava, perché basta condirla solamente con un po' di sale e farla semplicemente bollita, proprio perché per attezzare tutto il sapore di questo legume. Angelo, hanno una scadenza le fave secche? Allora, diciamo che noi in etichetta indichiamo 2 anni come scadenza minima, poi in realtà, diciamo, in teoria si potrebbero anche consumare anche oltre 2 anni, però diciamo poi iniziano un po' a perdere tutta una serie di proprietà organolettiche, per cui è meglio consumarle sicuramente entro i 2 anni dalla produzione. Bene, grazie ad Angelo Manna e buon lavoro. Sentiamo Marina da Forlì, buongiorno Marina. Sì, salve, io chiamo dalla provincia di Forlì Cesena, però la mia origine è di Oristano in Sardegna, mi sente? Sì, la sento, prego. Sì, dove praticamente sia le fave che i ceci sono dei legumi che vengono utilizzati principalmente nelle zuppe, e utilizziamo le fave fresche per fare un contorno di favette fresche che vengono saltate con un pochino di cipolla e un cucchiaino di zucchero, per modificare un po' l'acidulo delle favette fresche, mentre quelle secche vengono fatte con una zuppa, con la bietola, e poi si mangiano con le fette di pane, raffermo, diciamo, molto molto saporita. E invece i ceci vengono utilizzati sempre secchi, messi in ammollo, per una zuppa che si fa con il finocchietto selvatico, proprio con le barbette fresche del finocchietto selvatico. Bene Marina, ma a Forlì le trova le fave e i ceci, le trova? Praticamente quando io vado in Sardegna preferisco portarmeli dietro, però si trovano anche nelle confezioni biologiche e sono ugualmente buoni. Bene, la ringrazio, grazie a Marina da Forlì. Voglio lanciare così un sms a qualche medico che è in ascolto, perché mi chiedono: è vero che mangiando per la seconda volta le fave si può avere uno shock anafilattico? Io credo che sia impossibile, però non si sa mai, quindi se c'è qualche medico o qualche esperto che vuole dare questa risposta, bene, chiami o faccia un sms. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, a parlare di ceci e di fave. Vorrei precisarlo, dei legumi, ceci e fave, anche perché ho avuto alcuni sms che parlano, appunto, come mi chiama da Trieste un nostro radioascoltatore, e dice: le fave sono dolci con mandorle e zucchero di tre colori, rosa, marrone e bianca. Sì, caro radioascoltatore triestino, è vero. Ci sono gli ossi di morto, le fave dei morti che sono dolci, in particolar modo nella tradizione umbra, anzi una grande tradizione che dura da tantissimi anni, e sono dolci molto diffusi in quella regione e anche in altre regioni appaiono in pasticceria durante questo periodo, appunto, dei morti, le fave dei morti, gli ossi di morti che sono fatti con pasta di mandorle. Ma in realtà oggi vorremmo parlare dei legumi, perché sono di quei, diciamo, dei legumi se ne parla sempre poco, e allora abbiamo scelto, diciamo, questa via, anche perché poi vedremo ci sono alcune feste ancora tradizionali che durano da secoli attorno alle fave. Bene, però parlavamo anche di ceci, ancora non abbiamo toccato l'argomento dei ceci, altro prodotto straordinario poco diffuso, poco consumato. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E cominciamo a parlarne con un personaggio che è quello che ha portato alla ribalta un piatto a base di ceci che è stato un po' copiato non solo in Italia ma un po' ovunque. Buongiorno Fulvio Pierangelini. Buongiorno, buongiorno a voi. Fulvio, si sa tutto della tua passatina di ceci, però non si sa esattamente con quali ceci fai questa straordinaria passatina. Ma i ceci cambiano a seconda dei miei fornitori, comunque sono tutti ceci biologici, perché sono abbastanza facili da coltivare. Ogni tanto mi diverto con i ceci del solco dritto, perché la storia mi diverte, quella del solco dritto. A volte sono di Rapolano Terme, comunque sono tutti ceci toscani e evito di utilizzare i ceci di importazione, quelli che arrivano da troppo lontano. Ecco, stai in linea, perché tu hai tirato in ballo il solco dritto. Ebbene, abbiamo con noi Angelo Scipioni, agronomo della comunità montana di Acqua Pendente, che appunto si è occupato del recupero del cece del solco dritto di Valenzano. Buongiorno a Scipioni. Buongiorno a voi. Ma allora ci racconta, cos'è questo cece del solco dritto? Guardi, è un cece di grande qualità che viene coltivato a ridosso del lago di Bolsena, praticamente tra l'Umbria, il Lazio e la Toscana, e soprattutto nel comune di Valentano, che appunto è quello che dà il nome al prodotto. E è un prodotto sicuramente particolare, a parte per il nome, che se volete vi spiego da dove viene fuori, ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche organolettiche. No, ci deve dire prima di tutto allora da dove deriva il nome, poi dopo passeremo anche alle qualità organolettiche. No. Allora guardi, viene da un'antica tradizione del comune di Valentano, per la quale la mattina di Ferragosto, che qui appunto per la mattina della Madonna di Mezzagosto, viene tracciato un solco nella piana che sta sotto l'abitato, il centro storico di Valentano, un solco lungo 4-5 chilometri, e che una volta tracciato con i buoi, oggi ovviamente magari utilizzando dei trattori agricoli, e dalla riuscita di questo solco, se il solco era più o meno dritto, si traevano una volta gli auspici per il raccolto dell'anno, cioè se veniva dritto andava tutto bene, se veniva storto era preoccupante per l'annata che seguiva. Bene, rimanga con noi perché poi passeremo alle qualità organolettiche. Sentiamo Alberto da Torino, buongiorno Alberto. Buongiorno. Mi dica. Allora, no, io sono stato coinvolto perché sentivo la radio, io sono un pediatra, sì. Si parlava di fave, sì. E ricordavo che esiste un'anemia ereditaria che colpisce soprattutto le popolazioni della Sardegna, che si chiama favismo. questa malattia causa, per via di un deficit di un enzima, la G6PD, causa un'anemia emolitica anche abbastanza grave nei portatori di questa malattia quando assumono le fave, addirittura quando vanno in un campo di fave. Voglio ricordare questo. Beh, può dare risposta anche a questa SMS che avevo avuto, che mi diceva: è vero che mangiando per la seconda volta le fave si può avere uno shock anafilattico? Quello non l'ho sentito, che causa delle allergie? No, è vero che mangiando per la seconda volta le fave si può avere uno shock anafilattico. Io credo che sia così, impossibile. Comunque, lei ci può... Qualunque alimento proteico può dare uno shock anafilattico se il soggetto è sensibilizzato. Certo. Ma questo è soprattutto sulle proteine del latte e delle uova. Sulle fave no, la malattia causata dalle fave è una anemia emolitica autoimmune causata da un deficit di un enzima. Bene, grazie Alberto per la sua partecipazione, per la sua consulenza. E volevo tornare a Fulvio Pierangelini. Fulvio, ma non pensi che i ceci e le fave siano poco utilizzati in cucina e invece potrebbero avere così largo uso? Ma io le adoro e tu lo sai, è il piatto più significativo, anche se non secondo me il più grande della mia cucina, è quel piatto che ancora non abbiamo nominato, ma... Sì, io uso comunemente fave, sia la fava di Leonforte che adoro, le fave fresche, piselli, lenticchie, cicerchie. Secondo me sono straordinari perché, specie con il pesce, hanno degli abbinamenti meravigliosi, un filo d'olio sufficiente. Quindi anche le fave col pesce, tu dici? Sicuramente, certo. Io facevo, mi ricordo mille anni fa, una zuppetta di... un tegamino lo chiamavo, di fave e piselli con degli scampi e con dei calamaretti, era fantastico, me lo ricordo ancora, sì. Bene, quindi diciamo che ci potrebbe essere largo utilizzo, ma anche per dare così fantasia alla cucina, perché altrimenti se no gli accostamenti rimangono sempre quelli. Grazie Fulvio, e non abbiamo nominato il tuo piatto più noto che ho citato a metà all'inizio, non lo citeremo neppure in fondo, perché sennò diventa così una storia molto lunga. Grazie Fulvio, a presto. Sentiamo Augusto da Viterbo. Buongiorno. Mi è venuto in mente delle fave, praticamente 50 anni fa, 60 anni fa si andava avanti con i legumi, e poi in periodo di guerra hanno sfamato parecchie bocche romane, perché venivano su dai contadini perché a Roma non trovavano niente, e allora gli si davano un po' di fame, un po' di fagioli, quello che sapeva, e venivano su ste madri di famiglia, si raccomandavano, magari portavano su qualche cosa, facevano lo scambio. E poi si davano gli asinelli, perché quando si raccoglieva l'uva bisognava prepararli per la fatica. Allora si metteva la fava con un po' di semola, si bagnava leggermente, altrimenti starnutivano. Senta, ma... questo è stato avanti. Peccato che si sono abbandonate, perché poi sono buone tutte quante le fave. Addirittura in umido, condite a insalata, con un po' di cipolla, l'aceto, sale, pepe, olio, giustamente, e sono piatti da riscoprire, perché io da bambino le odiavo perché si mangiavano solo quelle, e invece adesso le ricerca non le trova, è così. Sì. Bene, grazie Augusto da Viterbo. Ma lei lo conosce il cece del solco dritto? Beh, no, sta dall'altra parte. Noi abbiamo il cece rosso praticamente, perché sono legumi molto resistenti alla siccità. Venivano piccoli e si facevano addirittura sopra come le galla d'aoste, e si mangiavano così i ceci, abbrustoliti. Bene, grazie Augusto da Viterbo. Torniamo ad Angelo Scipioni, che ci stava per raccontare le qualità organolettiche dei ceci. No, sì, infatti, volevo però ricordare all'amico che ha parlato poco fa che è facile oggi trovare, insomma, il cece del solco dritto. Credo anche in tutta Italia, insomma, poi sicuramente in provincia di Viterbo, a Roma. Guardi, ritornando alle caratteristiche del nostro cece, è un cece che ha il vantaggio, essendo coltivato in terreni vulcanici, che sono dei terreni molto ricchi di potassio e poco dotati di calcio, ha due vantaggi fondamentali. Il potassio conferisce, insomma, il sapore, la sapidità, come si dice normalmente, mentre invece il fatto che ci sia poco calcio determina una facilità di cottura sicuramente superiore, nel senso che sono ceci che si cuociono molto facilmente, non è che c'è bisogno di quelle grandi ore che generalmente di cottura richiedono altre varietà, ecco. Senta Scipione, quanto costa un chilo di ceci? Ma guardi, un chilo di ceci confezionato da mezzo chilo credo sui 4-5 euro al chilo lo trova, insomma. Quindi diciamo, cioè, più o meno come le fave, diciamo lì, insomma, 5-6 sì, euro. Sì, no, io poi volevo ricordare un'ultima cosa, se prego, mi permette, prego, certo. Che la comunità montana da qualche anno ha, diciamo, registrato un marchio collettivo che si chiama Prodotti Tipici dell'Alta Tuscia, e grazie a questo marchio collettivo si ha la certezza, perché spesso c'è anche chi vende dei prodotti con altri nomi. Molto spesso. Molto spesso, infatti. E allora noi ci siamo preoccupati e abbiamo realizzato questo marchio collettivo che viene dato esclusivamente a chi coltiva nell'areale che noi abbiamo individuato, rispetto a un disciplinare di produzione e soprattutto lavora i prodotti, cioè pulisce e confeziona in zona da noi, nel comune di Onano, dove c'è appunto un impianto che serve per la pulitura e il confezionamento. Ma mi sembra che a Onano ci siano anche le lenticchie molto famose. L'ultima cosa che le volevo ricordare è che da noi, siccome sono terreni molto vocati, come le dicevo, volevo ricordare anche la lenticchia d'Onano, che è sempre coltivata più o meno nello stesso areale, il fagiolo del purgatorio di Gradoli, che è sempre appunto nel nostro comprensorio, e il fagiolo secondo della stoppia di San Lorenzo Nuovo. Quindi, come vede, abbiamo un bel paniere di legumi in zona qui da noi. Bene, la ringrazio Scipione, grazie della sua parola. Voglio chiedere un'ultima cosa: c'è un piatto particolare appunto nella zona dove viene prodotto il vostro cece del solco dritto, un piatto diciamo originale, territoriale? Guardi, io credo che il miglior sistema per gustare veramente questi legumi è il, come si dice, sale, olio e basta, insalata, perché allora veramente si colgono tutti i sapori del legume, se no in altri modi probabilmente vengono mascherati dai condimenti. Quindi io consiglio la prima volta di usarli in quel modo. Grazie, sentiamo Francesco da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. Mi dica. Vivo a Brescia e lavoro a Brescia, però in questo momento sono sull'autostrada, sto andando in Sicilia. No, volevo intervenire sul discorso delle fave. Sì. Io so che una volta i contadini, per preparare il terreno al grano, perché la Sicilia, come si diceva al tempo dei Romani, era il granaio d'Italia, dovevano fare ogni tanto la favata, cioè a dire il alternare la coltivazione del grano a quello delle fave, per cui si creava probabilmente nel terreno quell'humus importante che doveva essere, come dire, per il buon raccolto del grano. Quindi forse ritorniamo al discorso di prima, che si era parlato legato alla morte, legato anche a Pitagora, eccetera eccetera. Quindi lei dice c'era una metafora da questo punto di vista dell'alternanza appunto del grano e fave, quindi la fava moriva un anno e tornava l'anno dopo, voleva dire questo? Sì, cioè vuol dire che la favata, cioè coltivare le fave sul terreno, significava dare quella vita, o comunque quella vita, l'alternanza, certo, per rifiorire l'anno dopo. La Bene. Fava ovviamente è un legume molto molto mediterraneo, dato che nelle altre zone del Mediterraneo, dalla Grecia alla Tunisia, al Marocco, eccetera eccetera, se ne coltiva diciamo una quantità notevole. Bene, volevo grazie segnalare... Francesco, e buon viaggio. Mi raccomando, non parli al cellulare senza viva voce. A presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di ceci, a parlare di fave, ma innanzitutto ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Volevo anche ricordare che in questi giorni a Mondovì si sta svolgendo una lunga settimana di peccati di gola, una manifestazione che è anche un po' una fiera del tartufo. Ebbene, domani addirittura, diciamo in un teatro della città, ci saranno le ricette raccontate, e le ricette raccontate sono le ricette della memoria del gastronauta, quindi credo che sia una cosa divertente e simpatica. Bene, ma torniamo al nostro argomento principale, che sono appunto i legumi, e io voglio parlare, anzi sentiamo Raffaele dalla provincia di Pavia. Buongiorno Raffaele. Sì, buongiorno, volevo dare un mio contributo. Anche nei paesi del Medio Oriente è molto diffuso l'uso di mangiare fave. Io sono di origine pugliese e le uso come un piatto, diciamo, comune. Per me, l'ho apprezzato anche nel Medio Oriente. Tra l'altro c'è un detto che dice che le fave sono la colazione del principe, il pranzo del popolo e la cena dell'asino. Quindi diciamo le mangiano tutti, con priorità diciamo anche le classi nobili le apprezzano molto. Quindi un prodotto per tutti, insomma, uno dei pochi prodotti per tutti. Sì. Benissimo, grazie Raffaele. E ora torniamo un secondo sui ceci. Andiamo da un agricoltore che è Gigi Giovannozzi. Buongiorno Giovannozzi. Buongiorno. Lei produce anche anche cece rosa? Ecco, sì, il cece rosa è un cece che noi abbiamo riscoperto da poco, perché io faccio parte, oltre ad avere una piccola azienda sul Bacco Magno fra Firenze e Arezzo, nel comune di Terranuova, faccio parte dell'associazione agricoltori custodi, quindi abbiamo riscoperto diversi prodotti, fra cui il cece rosa, il cece pergentino, il cece piccino dei Chianti e il cece fiorentino. Quindi ci sono varie tipologie di sì, ceci. E piccoli, sono molto piccoli e rugosi, e sono ottimi queste riscoperte. Abbiamo fatto dopo l'esodo degli agricoltori, che poi questi prodotti che non avevano un canale, un commercio, erano in via di estinzione. Ecco, senta, ma il gusto di queste tre tipologie di cece che lei ha raccontato è molto diverso l'uno dall'altro? È molto diverso, no, ma come qualità sono ottimi tutte e quattro. Ci sono il cece rosa e il cece pergentino hanno un sapore esagerato, mentre il cece piccino dei Chianti e il cece fiorentino hanno un sapore più tenue, però sono ottimi anche quelli lì. Bene, grazie a Gigi Giovannozzi. Volevo ricordare che la terra di cui ci ha parlato, il Prato Magno, produce uno straordinario fagiolo, che è il fagiolo zolfino, di cui Giovannozzi è anche agricoltore, appunto, e produce il fagiolo zolfino. Grazie Giovannozzi. Sono state citate alcune cose che mi chiamano in causa. Luigi da Milano, buongiorno, un radioascoltatore. Quando sono lo chef di un ristorante a Milano. Sì. È da anni che faccio una passata di ceci con la bottarga. Sì. E fave con la bottarga. Bene, quindi la bottarga combinata con questi due legumi. Le fave sono eccezionali, però per addolcire le fave e i ceci bisogna mettere una foglia di alloro fresco, che toglie un po' di acidità. Bene, benissimo questo segreto, grazie Luigi. Ma visto che ha parlato di bottarga, io guarda caso vado a Carloforte da Secondo Borghero del Tonno di Corsa, perché non tanto per parlare di bottarga, che così Luigi ha raccontato due ricette, ma in quanto a Carloforte si fa una zuppa di fave, e guarda caso una zuppa di fave, una minestra di fave si fa anche a San Giorgio di Valpolicella, di cui poi parleremo con Lodovico Testi, di una festa importante. Pensate, la Sardegna, Carloforte sul mare, Valpolicella è completamente diversa, anzi San Giorgio è in alto, quindi due distanze così lontane, due terre così lontane che hanno in comune le fave. Borghero, come mai si fa una minestra di fave, una zuppa di fave a Carloforte? Salve, intanto buongiorno a tutti. La spiegazione è molto semplice. In un posto di mare dove è molto difficile reperire le verdure fresche, i legumi diventano un elemento molto importante nell'alimentazione, perché consentono di essere essiccati e dunque di essere conservati. Per cui è un prodotto che troviamo tutto l'anno. Da noi si fa appunto questa zuppa di fave, viene fatta con fave decorticate, un piatto secondo me molto raffinato, perché oltre alle fave viene accompagnato con delle verdure di stagione. Infatti è un piatto tipicamente estivo, si mangia tiepido ed ha la caratteristica di essere profumato, perché dentro c'è tanto basilico e molta maggiorana. Senti, secondo me tu conosci, tu utilizzi la bottarga assieme ceci e fave? Dunque, io sono un po' contrario a questi abbinamenti, anche se ormai si stanno sviluppando molto, perché io credo che la bottarga ha un ventaglio gustativo talmente particolare, talmente, diciamo così, ampio, che secondo me va goduta da sola. Mentre invece abbiamo degli abbinamenti con altri legumi e con cose di mare. Per esempio, in questo periodo noi stiamo facendo un piatto che è baccalà e ceci. I ceci però vengono praticamente fatti un po' come si fa con la farina di ceci, cioè come si fa la panissa, che sono di una sorta, diciamo, la panissa è una sorta di polenta di farina di ceci che viene accompagnato con queste polpette di baccalà. Bene, non voglio togliere niente a Livorno, perché con i livornesi bisogna stare molto attenti sulla loro passione. Il baccalà con i ceci è sicuramente una specialità livornese, quindi, ma sicuramente poi di posti di mare. Carloforte è un posto di mare. Bene, ora vado a San Giorgio in Valpolicella da Lodovico Testi, che ogni tanto è nostro ospite, perché questo piccolo borgo c'è una festa importante, il giorno dei morti o il giorno avanti, ora ce lo spiegherà, in cui viene messo un paiolo con la minestra, diciamo, nel centro di questo borgo, e viene offerta. È vero, Lodovico? Sì, è verissimo, sì. Quando viene questo? Viene domenica prossima, il 9. Il 9? Il 9 novembre, sì. Perché avviene questo? Diciamo che questa festa di Fai è una festa antichissima, noi abbiamo documenti del 1300 che parlano di questa tradizione, è un'usanza pagana e veniva appunto poi, come si può dire, veniva fatta fino come manifestazione fino al 1900 e in quel periodo lì poi sono stati un po' dismesse le fave, sostituite un po' dai fagioli. Quello che al giorno d'oggi la Valpolicella non produce più fave e siamo in pratica l'unico paese di questo territorio che fa questa minestra di fave, non essendo produttori e non avendo nei nostri campi più le fave. Ecco, Lodovico, perché il giorno 9? Il giorno 9 è appunto è un'antica tradizione di origine pagana e viene fatto nel periodo dei morti. Quindi durante il periodo dei morti e non il giorno dei morti, ecco così, quindi durante il periodo. Senta, ma viene molta gente, cioè molta gente, diciamo, scodella questa minestra da questo paiolo? E la festa sì, è molto molto seguita e diciamo che la particolarità di questa festa è quella di aver rispettato proprio la tradizione. Cioè non è una festa sicuramente commerciale, è una festa che, come dicevo prima, di origine pagana, però molto sentita dagli abitanti di questo borgo medievale. Ecco, diciamo quanti sono gli abitanti? Gli abitanti, noi ne abbiamo contati quest'anno 385. Ecco, credo quasi, però... Quasi come l'altezza del nostro borgo. Credo comunque che San Giorgio valga la pena di essere visitato perché è un borgo veramente molto interessante. Sì, comunque la particolarità di questa festa appunto è proprio della distribuzione che avviene proprio su un blocco di marmo. Come lei sa, questo paese è famoso per il marmo e per il vino ed è raro appunto la distribuzione viene appunto su un masso che viene chiamato Piera delle Fave. Attorno a questo masso paiono delle persone in costume e distribuiscono le fave secondo i componenti del paese. Ogni famiglia in pratica ha un diritto, questo è un lascito, ha un diritto in base ai componenti della famiglia, a un numero pari ai componenti della famiglia. Bene, grazie Lodovico, quindi appuntamento al 9, ho 30 secondi per Marina da Verona. Buongiorno Marina. Marilena. Senta, ho telefonato tardi perché aspettavo che parlasse della sigarada, classico piatto milanese di ceci, zuppa di ceci e maiale che si mangia per tradizione il giorno dei morti. Bene, abbiamo detto anche il piatto milanese, grazie a tutti e ora chiudiamo questa trasmissione invitandovi a riascoltarla domenica, domani alle 10, viene replicata oppure se volete scegliere anche il wine bar del gastronauta alle 12:15 e la pillola tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18. Il vostro gastronauta vi saluta e magari fate uso di ceci e fave proprio in questo periodo, avete sentito tante ricette e credo che ci si possa anche sbizzarrire. Buon weekend a tutti!